pelle profonda del male che ci circonda. Conosco gente che abbonda e di desideri che sonda, che pensa al bottino e lo mira come un cecchino. Compra titoli ridicoli per venderle vicino, come vino bevi liquidi di chi si è sottomesso. E ho messo la parola di chi invece parla spesso, con un capitale che vale più di se stesso. Governo una nazione che spesso porta in regresso, vede il suo incasso come nella banca, moltiplica i milioni come Cristo fa col cibo. Vive nel lusso ma ruba chi arranca, la fa pure franca rinchiuso dentro il suo limbo. Tocca banconote che ama più delle sue mogli, se le tiene strette come fossero i suoi figli. Per lui sono la chiave che risolverà i suoi imbrogli, ma sono la nave con la quale prende scogli. Fatti di lingotti dorati e compatti, macchiati del sangue di gente che ha fatto dei patti per avere soldi che nei conti c'hanno già. Spinti dall'avidità più che da necessità, convinti di se stessi persi dentro il loro rango. Amano i contanti proprio quelli che non tengo. Dai, più ne hai più ne vuoi, non ti basteranno mai. Sai, più ne hai più ne vuoi, puoi comprarci ciò che vuoi. Dai, più ne hai più ne vuoi, non ti basteranno mai. Sai, più ne hai più ne vuoi, puoi comprarci ciò che vuoi. Il povero si corica in un letto rovinato, bagnato dalla pioggia perché il tetto si è sfondato. Lui non ha una villa, pochi soldi e non li ama. Ormai sta in una cella e l'aria che respira insana. Non guadagna ma si bagna di una pioggia che ristagna come l'acqua nella fogna, e sogna di avere un lavoro. Lo trattano da rogna come fosse una vergogna, ma tanto non si lagna, i soldi non sono il decoro. C'è chi invece a fine mese non ci arriva per la crisi, si nega le spese per complotti già decisi. Molti soldi vanno perché pochi vengono, emergono e convergono verso chi fa danno, verso chi gestisce e nulla garantisce. Riesce in un complotto svolto con chi gli ubbidisce. Qui l'occupazione diventa preoccupazione, resti in cassa integrazione, non arrivi alla pensione. Fa attenzione alla mansione che ricopri negli affari, perché se no crolli come i titoli bancari. E anche se tu vesti con camicia e con cravatta, porti la disfatta fatta con i tuoi compari. Mancano i salari e non i beni necessari, sto sistema già collasso e porta spasti sui vicari. Più ne hai più ne vuoi, non ti basteranno mai. Sai, più ne hai più ne vuoi, puoi comprarci ciò che vuoi. Dai, più ne hai più ne vuoi, non ti basteranno mai. Sai, più ne hai più ne vuoi, puoi comprarci ciò che vuoi. Dai, più ne hai più ne vuoi, non ti basteranno mai. Sai, più ne hai più ne vuoi, puoi comprarci ciò che vuoi. Dai, più ne hai più ne vuoi, non ti basteranno mai. Sai, più ne hai più ne vuoi, puoi comprarci ciò che vuoi.